Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. Luna 1:57, sabato 4 agosto 2018, io sono sempre Master Nick e sempre con piacere ospito nel mio studio, nel nostro studio, protagoniste di questa serata. E dovete sapere che stasera è stata veramente, mi perdoneranno tutte le altre, uno dei cavalli di razza di questo sabato sera, perché è stata davvero divertente passare la serata con lei. Speriamo che ci sia divertita altrettanto. Diamo il benvenuto a... Vedete questo nome particolare con 7 U consecutive, un nome vichingo, vichingo, però che hanno in poche, racconta la sua unicità. Benvenuta U. Buonasera. Buonasera, senti, senti come è molto Piero Angela nella sua voce. Benvenuti in questa serata. Preso muy caliente. Ha preso possesso del microfono, mi piace, mi piace. E tra l'altro è passato un minuto e ancora non ha detto il suo nome. Grazie. Grazie, grazie, no, non ti devi vergognare, è un bellissimo nome che ti... certo, grazie. Vedi, fa tutto. Ne è orgogliosa. Grazie, fa tutto, bene, bene. No, l'hai detto tu, grazie, fa tutto. Con grazie. Ah, con grazie fa tutto, scusa, avevo sentito male. Allora, grazie, da dove vieni? San Gregorio. San Gregorio? Di Veronella, così lo specifichiamo. Provincia di Verona. E cosa stai festeggiando qui? Non il tuo, come si dice, attestato da bagnina, perché... Ma? Il mio addio al nobilato. Il tuo addio al nobilato, bene, bene. Mi piace perché la grazia si distingue dalla massa. Di solito si dice con molto entusiasmo, l'hai detto con una serietà quasi da avvocato. Un impegno. Esatto, mentre lo dice mettendosi a posto la maglietta e quindi... L'impegno ci si sistema al... Il vestito, perché bisogna stare attenti che... Il costume intero. Perché bisogna anche stare attenti che le grazie per me non escano dal loro posto. Le tre grazie, che non sono la Nina, la Pinta e la Santa Maria. Lasciamo lì. La Nina, la Pinta e la Santa Maria. Ah, no, le chiama così anche lei. Non specifichiamo di cosa stiamo parlando. Se avete più di 18 anni avrete sicuramente capito. E Cristoforo Colombo sa. Cristoforo Colombo sa, assolutamente. Se potesse parlare, no, Cristoforo Colombo. Su tutte e tre quando vuole. Però la preferita resta sempre la Santa Maria. E chi te l'ha detto? Cristoforo Colombo. Ah, avete avuto questo scambio epistolare? Esatto, vi scrivevate delle lettere? I nomi sono quelli. Vi scrivevate delle lettere? Sì. Ma quindi, scusa, di solito a una donna non si chiede, tu dovresti avere tipo 700 anni, quindi. Esatto. Ma li porti benissimo. Esatto, guarda, belli soldi. Sei in formissima. Tonici, a 700 anni tonici. Cristoforo Colombo naviga, che è una meraviglia. Bene, bene. Naviga, però ricordiamolo, cioè non in internet, sulla nave. Con la Santa Maria. Con la Santa Maria, perché ancora... Santa anche Mary. Non c'era... Holy Mary. O Saint Mary. Chris and Mary si naviga. Si naviga, mi piace. Di solito i DJ dicono sulle mani, lei dice si naviga, che è un nuovo modo di intrattenere anche le folle. Allora, dicevamo, stai festeggiando il tuo addio nobilato. Quando ti sposerai e con chi? Che è un'altra informazione importante da dire. Mi sposerò con Chris... Con? Con Chris, esattamente, il primo settembre. Ok, il primo settembre. Chi è Chris? Cristoforo Colombo per esteso. Ah, cioè siamo sempre lì, quindi diciamo che si è partiti con un romanzo, con uno scambio epistolare, e poi invece tutto si è tramutato in un... Esatto. In un rapporto reale. Bene, bene, ma come fa a conservarsi così bene Cristoforo? Cioè, che prodotti usa? Delle creme particolari? Allora, durante il viaggio si mantiene avanti e indietro con... In freezer, no. I soliti viaggi, quindi... Secondo me non lo sa neanche lei. È il sale grosso che fa miracoli. Ah, il sale grosso, brava, brava. Come lo metti sulla tagliata, capito? Brava, dai, brava, brava. Sale. Oppure una... Preferisci sempre la Mary. Una cella frigorifera, una cella... Sì, la Nina. Sì. Ah, è per quello che preferisce la Mary, perché sta a sud. Sta a sud. Infatti Cristoforo arrivò all'America con la Mary. Maria. Esatto. Per gli appassionati di vela e di barche in generale, la Santa Maria sta a sud. Andate a sud e trovate la felicità, ma attenzione alla boschina, perché io ho visto nella tua Mary un po' di boschina, un po' di selvaggina, un po' di selvaggio. È perché la fauna si è mantenuta per l'occasione speciale del 1° settembre, e quindi una volta arrivati al 1° settembre andrà via. Via, sparisce tutto. Pulizia totale. Ah, pulizia totale, bene, bene. E libertà di viaggio, di andata e ritorno, quello che vuoi, insomma. Perfetto. Flora, sì. Mi fa piacere, tra l'altro, che comunque Cristoforo ti ami lo stesso, nonostante questa tua scelta integralista di far sparire tutto dopo il 1° settembre. Lui ha mantenuto questo viaggio, ha sognato questo viaggio per 11 questo anni. Questo viaggio? Quindi... Qua ce l'ha qua sto viaggio, non le cambia. E là qua, la passione, si vede. 11 anni ha deciso di partire. Sì. E una volta partito... No, io sono affascinatissimo, sto seguendo con grosso interesse. Esatto. E quindi adesso si progetta il viaggio, fra meno di 30 giorni si parte. E quindi il disboscamento avrà atto e la Mary sarà bella pulita. Perché una Mary pulita allunga la vita, ricordiamolo. Ricordiamolo. Famosissimo detto dei frati francescani. Sì. Una Mary pulita. Sì, bene, benissimo. E mi permetterai anche di dare il dovuto spazio alle tue amiche, a chi ti accompagna stasera. Chi c'è qui loro con te? Loro parteciperanno al mio disboscamento. Ah, è proprio un evento aperto. È un evento, dopo 11 anni, ben dopo 11 aperto anni. Aperto a tutti, bene, bene. Esatto. Ci fa piacere. Allora, ce le vuoi presentare velocemente? La bellissima Alessia che ho qui a fianco. Benvenuta Alessia. Poi Francesca. Ciao Francesca. Qui abbiamo Nicole. Ciao Nicole. E la Michela. Yes. E per finire la special guest Martina Malvetti. Io ho capito solo special guest. Vabbè, facciamo che poi mi dici il tuo nome con calma. Martina, ok. Martina. E perché poi ha sbarbellato il microfono. Via Ferra Mosche. L'indirizzo anche, dà l'indirizzo, va bene. A Spareto Verona. Bene, e prima che dia anche il vostro codice IBAN, che è più grave, io direi di salutarvi e di ringraziarvi, perché sennò lei dici, vai Martina. Ah, Martina ha soffiato sul microfono per far vedere la sua presenza, insomma dare un segno della sua presenza qui. E allora, grazie mille ancora, lo so, te l'avranno detto, però grazie, purtroppo te l'ho detto. Grazie. No, beh, basta. Grazie per la grazia che mi hai dato, grazie mille. Perfetto. Top. Ti salutano anche gli 883 dopo aver citato una delle loro canzoni più conosciute. Sei bellissimo. Quella non erano gli 883, però va bene uguale. Ah, ti ringrazio, gentile. Sì, ti ringrazio.